e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Ciao Deborina. Fatti guardare un po' bene. Sono un po' gonfia di sonno. Perché? Ecco, ma sai che ho letto, e adesso butto l'occhio anche di là, guardo il nostro tecnico, Laura e Marco che si nascondono. Gianmarco in formissima. Sì, perché, ma insomma, anche lui dice così e così, è la barba, no? Che copre, perché statisticamente la notte tra domenica e lunedì è quella più soggetta ai fenomeni di insonnia. Ecco quindi spiegato quelle facce stropicciate del lunedì. Vogliamo sapere quindi come è andata la vostra notte, come vi sentite a iniziare la settimana, che cosa racconta la vostra faccia. 800 24 00 24, potete mandarci un WhatsApp o anche una vostra foto. Come iniziate? Con che faccia iniziate la vostra settimana? Allora, no, stavo riflettendo su questa cosa. Com'è che mi stavi dicendo? Allora, la tua è carina, fatto distesa. Una, no, io invece ho fatto un po' più fatica. Per me, io ho proprio la sindrome della domenica sera su lunedì da lavoro, e stavo riflettendo sul fatto che forse proprio perché c'è scientificamente questo fenomeno, che stamattina la seduta in borsa è partita malissimo, forse tutti gli operatori, come dire, hanno avuto sonni agitati, sono preoccupati per la Brexit e per tanti altri temi finanziari che stanno agitando le acque, non solo i sonni, per cui tra l'altro ne approfitto per anticipare che dopo la tua rassegna stampa andrò a commentare con un esperto questa mattinata un po' turbolenta in borsa. Che ne andiamo. Dici? Andiamo. Svapare o non svapare? Dalla ricerca arriva l'ardua sentenza, o almeno la prima parte, perché i dati definitivi dello studio a cui hanno contribuito diversi atenei italiani coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità arriveranno nel 2019. Secondo quanto anticipato da un articolo pubblicato su Tobacco Control, la più importante rivista del settore, la sigaretta elettronica non fa male, e questa è un'ottima notizia per gli svapatori, ma in compenso è poco efficace come metodo per smettere di fumare. Qual è la vostra esperienza? Raccontatecela. Volete saperne di più? Un approfondimento sulle pagine di Cuore Denari vi aspetta. E noi continuiamo con la nostra rassegna stampa di oggi, segnalandovi una ricerca che arriva dal Canada e che ha analizzato la seconda vita, diciamo così, degli antidepressivi, che sono farmaci che vengono prescritti per la terapia della depressione, ma in realtà vengono consumati e utilizzati anche per curare tutt'altri disturbi, mal di testa, insonnia, ansia. A raccontare la frenetica attività parallela degli antidepressivi è stato un gruppo di ricercatori della McGill University di Montreal in Canada, insospettito dall'aumento delle vendite negli Stati Uniti di questa categoria di farmaci negli ultimi 20 anni. E di antidepressivi si è parlato molto anche da noi in Italia, perché, come rivelato dal rapporto Serva Salute, nel nostro paese il consumo di antidepressivi continua ad aumentare. Ma alle volte la pastiglia non aiuta a risolvere il problema, e allora che fare? Rassegnarsi? Bene, dall'Inghilterra, ma non solo, arrivano ricerche che confermano come l'attività sportiva potrebbe essere una buona soluzione per combattere la depressione. Questo perché lo sport aiuta a riacquistare fiducia e autostima, aiuta a distrarsi, a liberare la mente da preoccupazioni e pensieri negativi, e stimola il contatto positivo con la natura, il verde, la luce. Ma nello specifico, quale e quanta attività fare? Gli esperti consigliano di praticare quegli sport che producono uno sforzo costante e moderato, come la corsa, la bicicletta, il ballo, ma anche vanno bene gli sport di squadra, il basket, il volley e anche le arti marziali. Per quanto riguarda il quanto, gli esperti sono tutti concordi nel segnalare che per ottenere benefici basterebbero 150 minuti a settimana di attività moderata, di moderata intensità, o 75 minuti di attività ad intensità più vigorosa. Ma attenzione, già dopo appena 25 minuti, provare per credere, l'umore migliora, si è meno stressati, si ha più energia, si è più motivati ad esercitarsi di nuovo. Magari una buona corsetta al lunedì aiuta. E chiudiamo parlando sempre di esercizi, ma questa volta per il nostro cervello. Perché se è vero, come sostengono le ultime ricerche, che essere molto impegnati migliorerebbe le nostre capacità cognitive, Deborah, ti ricordi, abbiamo dedicato proprio una puntata a questo tema, l'importante però è non esagerare, perché altrimenti si rischia di mandare in tilt il cervello. E allora, se volete avere un cervello allenato e in forma, ma non stressato, sulla nostra pagina trovate tutti gli esercizi per migliorare la concentrazione a cura di Assomensana. Prima di andare ad approfondire con un esperto, adesso andiamo ai temi di denari, quello che sta succedendo in borsa da qualche giorno dopo la bruttissima giornata di venerdì e anche oggi, non è che la settimana si sia aperta sotto i migliori auspici, abbiamo un quadro negativo molto pesante in tutta Europa, darei qualche altra notizia di denari. Allora, partendo da quello che è successo a Milano in questo weekend, l'esplosione nel palazzo a sud appunto di Milano che ha provocato 3 morti e 9 feriti. Domani anche noi di Cuore Denari torneremo su questa notizia perché vorremmo raccogliere le informazioni utili sulle precauzioni da prendere nella gestione degli apparecchi a gas, la loro cura e manutenzione in particolare. Aspettavamo, Nicoletta, quante volte l'abbiamo detto, la settimana decisiva per le nuove regole sull'utilizzo dei voucher lavoro, forse almeno in parte la settimana scorsa lo è stata. Esatto. Dopo una serie di rinvii, il governo ha approvato venerdì in via preliminare il primo decreto legislativo correttivo del Jobs Act che ora è atteso dalle Camere per i pareri. I voucher diventano quindi tracciabili, committenti, imprenditori non agricoli e professionisti dovranno inviare sms o mail un'ora prima dell'inizio della prestazione attraverso il voucher, appunto, che verrà remunerata attraverso il voucher, e questa comunicazione va inviata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro indicando dati anagrafici, codice fiscale del lavoratore, luogo e data della prestazione. Per i committenti imprenditori agricoli la comunicazione è resa più soft perché si può perfezionare invece in un arco temporale non superiore a 7 giorni. Per chi ha intenzione di violare queste nuove norme scatteranno delle sanzioni piuttosto salate da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Tra l'altro, proprio a proposito di lavoro precario, perché è il lavoro precario che è stato spesso e volentieri associato alla retribuzione con i voucher lavoro, il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha dato ragione ad una docente precaria della scuola pubblica italiana che aveva fatto causa al Ministero dell'Istruzione condannandolo a risarcirla con 35.000 euro. Vuoi sapere perché? Volentieri. Non è possibile abusare di contratti a tempo determinato quando in realtà le esigenze di organico sono stabili e non transitorie, anche nel caso in cui il datore di lavoro sia pubblico, quindi lo Stato italiano. Esattamente. La docente si era rivolta all'associazione sindacale ANIE, docente precaria da ormai 14 anni ininterrotti, direi che si era più che stabilizzato questo rapporto di lavoro. Il MIUR ha continuato invece ad affidarle incarichi a tempo ogni anno, sempre fino al 30 giugno, al 31 agosto. Dopodiché, ecco qua che è arrivata la decisione di un giudice. Allora, intanto invece è arrivato qualcos'altro. Brava, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo insieme. Cuore e denari. E allora, con la premessa del meno 3% di Tokyo, c'è stata una partenza ad alta tensione stamattina per tutti i listini europei che inaugurano con perdite significative una settimana ricca di meeting delle banche centrali. Si riunisce la Federal Reserve, la banca centrale americana, la Bank of Japan, ma soprattutto la Bank of England, la banca centrale del Giappone. Dell'Inghilterra, della banca centrale appunto d'Inghilterra. Si aspettano indicazioni sulle strategie da attuare in caso di uno scenario con il Regno Unito in uscita dall'Unione Europea. È proprio il tema Brexit quello che sta scatenando tutte queste vendite oggi, ma soprattutto ne ha scatenate tantissime venerdì. I mercati finanziari sono molto nervosi, mostrando di contemplare molto seriamente l'ipotesi appunto di una vittoria del sì. Ma vogliamo saperne qualcosa di più? Cerchiamo un po' di capire da che cosa è alimentato tutto questo nervosismo, perché appunto c'è anche paura dell'ignoto, è quello che si potrebbe materializzare, uno scenario mai percorso prima, mai praticato prima. Per cui abbiamo chiesto aiuto ad un esperto di mercato. Abbiamo con noi Simone Facchinato, responsabile investimenti multi-asset e multi-manager di Anima SGR, che salutiamo. Buongiorno e bentrovato a Cuore Denari. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Un buongiorno per modo di dire, per voi questa mattina molto attivismo nelle sale operative. Dottor Facchinato, faccio un rapido riassunto della situazione. Milano sta perdendo 2 punti, ne ha persi 3,6 venerdì scorso, Parigi meno 1,31%, Francoforte meno 1,30%, Londra meno 0,39%, apparentemente la City è molto più tranquilla di tutte le altre piazze europee, scenario piuttosto negativo su tutti gli altri indici internazionali, naturalmente abbiamo sotto osservazione quelli asiatici. Allora, ci dice un po' il suo punto della situazione, nervosismo alle stelle, perché il mercato ipotizza a questo punto che una Brexit, un'uscita dall'Unione Europea, appunto del Regno Unito, sia un'eventualità da prendere molto in seria considerazione? Certamente i sondaggi degli ultimi giorni non aiutano a chiarire il quadro, anzi le due ipotesi non sono, come dicono gli esperti, statisticamente differenti dal punto di vista appunto della statistica, significativamente differenti. Quindi è una situazione dove noi operatori dobbiamo prendere in considerazione questa eventualità, ed è un'eventualità che porta con sé chiaramente molta incertezza. L'Inghilterra è sicuramente parte importante del sistema europeo, quello che può succedere è difficile da dire esattamente. Quello che comunque ci conforta è che dall'altra parte le autorità sono ben consce della problematica, dei rischi che vi sono, e quindi sono anche pronte ad agire. In ogni caso, come operatori dobbiamo pensare a proteggere gli investimenti, cose che tipicamente facciamo quando l'incertezza aumenta, ed è per questo che molti, crediamo, stiano vendendo probabilmente i titoli della borsa europea, cercando appunto di proteggere i portafogli. Attraverso che strategie, dottor Facchinato? Perché per esempio un segnale di protezione molto chiaro che è arrivato negli ultimi giorni è stato quello della corsa, come sempre capita, ai beni rifugio. Il bene rifugio per eccellenza in questo momento viene considerato il Bund tedesco, il titolo decennale appunto tedesco, che è scivolato ai suoi minimi storici, livelli mai visti, praticamente ha azzerato i suoi rendimenti. Investire in un titolo di Stato tedesco della durata di 10 anni significa incassare 0 in 10 anni. Appunto. Incredibile, ma vero, è un fenomeno che ormai viene da lungo periodo, quindi non è sicuramente legato direttamente alla Brexit, o perlomeno all'ipotesi Brexit, che peraltro ha accentuato questo fenomeno, perché in questo momento il titolo decennale tedesco rappresenta veramente il porto sicuro, la tripla A nel mercato europeo, e specialmente quando l'incertezza aumenta, come in questi giorni tutti cercano di posizionarsi lì dove non c'è rischio, o perlomeno insomma, aumentano quella parte del portafoglio. Senta Facchinato, naturalmente le vicende delle banche italiane sono abbastanza sganciate dalle questioni britanniche, però questa mattina i titoli appunto del settore sono in perdita pesantissima, 4, 5, 6, 7 punti percentuali, per esempio la Pop Milano è in assoluto la peggiore appunto. C'è qualche ragione in più per questi cali così dirompenti, o il mercato utilizza, gli operatori utilizzano una scusa inglese per vendere quei titoli dei quali non sono praticamente sicure, anche se poi vedo in ribasso molte altre società appunto che non hanno nulla a che fare con il comparto finanziario? Saipem meno 4,57%, Yux e Net-a-Porter meno 3,82%, senza andare a commentare ovviamente la storia di singoli titoli, perché non li chiediamo mai a nessuno, ma c'è un motivo particolare per cui è soprattutto il comparto finanziario ad essere molto penalizzato? Ma direi che ci sono due elementi: da una parte un'uscita eventuale della Gran Bretagna dall'Unione Europea significherebbe incertezza sul come si potrebbe sviluppare appunto questa uscita nel tempo, e pertanto i titoli finanziari, che sono coloro che finanziano l'economia, potrebbero entrare immediatamente sotto pressione. E questa è sicuramente la motivazione più forte che spinge gli operatori a coprirsi a rischio anche attraverso questi titoli che appunto possono entrare sotto pressione. Dall'altra vi è anche un altro elemento, che sicuramente i titoli finanziari in questo momento soffrono di una crescita che è abbastanza debole in tutta Europa, e questa ipotesi di crescita debole può essere accentuata ancora di più con un'uscita della Gran Bretagna. Grazie Simone Facchinato, Anima SGR, per essere stato con noi. Intanto segnalo che a Milano non c'è nessun titolo positivo in questo momento, quelli che perdono meno sono Italcementi meno 0,38%, Snam meno 0,4%, Moncler meno 0,6%. Cara Nicoletta, ho bisogno di un cardiologo, sì, per sopportare l'attenzione di stamattina. Ma mi noi, puoi aiutare? Ma noi abbiamo un grande esperto che ci parlerà di cuore, ma non solo. solo, oggi vogliamo parlare di coppie, anche è un po' il tema chiave della puntata di Cuore Denari. Parleremo di coppie che scoppiano, vero Debora? Eh sì, più tardi sì. E di coppie che dobbiamo prendere a pizzichini. In linea con noi abbiamo il professor Claudio Borghi, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna ed è presidente della Fondazione Società Italiana dell'Ipertensione. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Voi mi chiamate sempre nelle situazioni difficili. Quando c'è da togliere le castagne dal fuoco. Ma certo, bisogna chiamare i più bravi in quelle occasioni. Ma per la verità non so se sono così bravo in quel campo, ma certamente per cercare di farvi stare bene ci metto molto impegno. E devo dire che ce la fa, ci riesce molto bene, perché i nostri ascoltatori apprezzano molto i suoi interventi, la sua chiarezza e i suoi consigli. Intanto, prima di parlare della nostra coppia, oggi parleremo di una coppia che vive nelle nostre case, arriva sulle nostre tavole, che consumiamo spesso a pizzichi. Parleremo di sale e di zucchero, quanto possiamo permettercene, dove si trovano, come possiamo quantificare se la nostra dieta è troppo dolce o troppo salata. Parleremo di questo, ma professor Borghi, abbiamo nella rassegna stampa della salute parlato dell'attività fisica come un antidepressivo naturale e un ascoltatore a commento dei dati che io ho citato, delle ricerche che consigliano appunto un 150 minuti alla settimana di camminata, mi chiedeva se la camminata a passo svelto può essere considerato uno sport e soprattutto se va bene per il cuore e per il cervello. Professor Borghi. Dipende sostanzialmente che significato si attribuisce alla parola sport. Se alla parola sport attribuiamo il significato del movimento del corpo, certamente una camminata di passo svelto motivata può essere considerata uno sport. Se allo sport attribuiamo un significato di competizione, in quel caso naturalmente la camminata non è esattamente uno sport, perché non è finalizzato a migliorare un proprio tempo o ottenere il risultato nei confronti di un avversario. È una questione più semantica, ma la cosa importante è certamente quella di muoversi. Allora, noi ci muoviamo, andiamo a sentire il nostro GR, ritorniamo subito dopo insieme e cercate di quantificare, almeno sino ad ora, quanti cucchiaini di zucchero avete messo nel caffè. Ma parleremo anche di sale, a tra poco. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme. Come anticipato, ci vogliamo occupare della coppia sale e di zucchero. Un pizzico in meno, tanta salute in più. Ne stiamo parlando, anzi ne parleremo con il professor Borghi, che è in linea con noi. Professore, eccoci. Buongiorno. Qua. Vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori di prendere in esame una giornata tipo e provare a capire se la dieta è troppo dolce o troppo salata, perché non è solamente una questione di gusto ma anche di salute. Perché parliamo di sale e poi parleremo anche di zucchero? Lo spunto, come sempre, ci viene offerto dall'attualità. È stato pubblicato uno studio canadese, tra l'altro è stato pubblicato su una rivista molto prestigiosa, Lancet, che ha puntato il dito contro la dieta iposodica o a basso apporto di sale. E i ricercatori di questo studio affermano che potrebbe non essere benefica o addirittura aumentare il rischio di patologie cardiovascolari rispetto ad una dieta con un consumo medio di sale. Insomma, farebbe bene la dieta iposodica solo solo alle persone già colpite da ipertensione o che mangiano molto salato. Per il resto della popolazione non sarebbe necessaria, anzi addirittura controproducente. Naturalmente anche il Ministero della Salute italiano è intervenuto per puntualizzare la situazione, ma di fronte a queste informazioni che sembrano così che arrivano, che dicono tra loro contraddittorie, professor Borghi, noi che cosa dobbiamo pensare? Mettiamo un po' il pallino in centro. Sì, sicuramente credo che sia una cosa doverosa, perché se ogni settimana arriva un messaggio di senso contrario, poi alla fine ciò che si ottiene è, da un lato, la confusione assoluta di chi ascolta o chi legge, e dall'altro il fatto che nulla si modifica, e questo è probabilmente l'aspetto più negativo, perché nell'incertezza ciascuno di noi continua con il proprio comportamento perché apparentemente non gli crea problemi. Quindi questo è sicuramente l'aspetto più deleterio. Questo studio, che io ho letto attentamente anche perché pubblicato da Lancet è una rivista che ha una certa autorità da questo punto di vista, però uno studio molto particolare, primo perché è derivato da studi finalizzati ad altre cose, quindi non è un'analisi epidemiologica della popolazione, del rapporto tra sale e malattie cardiovascolari come si fa di solito, ma è qualcosa che è stato derivato da studi clinici prevalentemente finalizzati ad altre cose, un paio dei quali di tipo terapeutico, cioè studi che avevano come finalità quella di saggiare un farmaco nei confronti dell'altro. Secondo aspetto, il livello di dieta iposodica che viene considerato come potenzialmente pericoloso è sotto i 3 grammi di sodio al giorno, che è molto al di sotto di quello che noi suggeriamo. Nessuno di noi che abbia un minimo di testa sulle spalle si è mai sognato di suggerire una dieta così strettamente iposodica, tranne in una selezionatissima popolazione di pazienti, perché sappiamo molto bene che questo attiva al nostro interno una specie di diavoletto cattivo che si chiama sistema renina-angiotensina-aldosterone, che fa effetti esattamente opposti, che nel tentativo di recuperare il sale che noi non gli forniamo mette in moto alcuni meccanismi di danno cardiovascolare, quindi è una cosa assolutamente da evitare. Ciò che noi diciamo è di mangiare una quantità adeguata di sale, ma non adattarsi a una dieta iposodica di questo genere. Quindi fondamentalmente, per dirlo in maniera chiara, questo studio scopre fondamentalmente l'acqua calda, cioè mette un allarmismo che peraltro alle nostre latitudini è assolutamente ingiustificato. Professor Borghi, allora arrivano già i messaggi. Noi abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo sottolineato il ruolo e l'importanza di utilizzare per la nostra dieta il sale iodato, ma ci sono lei sa bene che vanno di moda sale di vari tipi, dell'Himalaya, quello nero, e ci sbizzarriamo anche per avere un po' il colore, un po' il grigio Breton è molto affascinante. Ricordo che la sua collega ne ha una certa collezione, lo diciamo apertamente in trasmissione. Non le sfugge niente, perché è un grande ascoltatore, ma arriva naturalmente una domanda di un nostro ascoltatore che le chiede se è una buona idea utilizzare sali iposodici. Sì, sicuramente sì. Il sale, il grande nemico all'interno del sale, inteso in senso lato, è il sodio. Il sale, come noi lo conosciamo, è chimicamente cloruro di sodio, quindi contiene cloro, contiene sodio e qualche altro additivo. Fondamentalmente il grande nemico è il sodio, quindi se noi riusciamo a ottenere una mistura che si chiami comunque sale e che quindi faccia il suo effetto, quindi insaporisca i cibi, ma che abbia un minore contenuto di sodio, che è il vero nostro nemico, in pratica non ci sottraiamo al piacere e contemporaneamente non ci facciamo del male. Quindi l'impiego di sali iposodici sono sicuramente raccomandabili. In più tenga conto che in generale il sodio che viene sottratto, quindi il nemico che viene messo a riposo, viene sostituito da potassio, che è invece un grande amico delle nostre arterie perché tende a fare funzionare meglio il flusso sanguigno e quant'altro. Quindi in pratica noi togliamo un nemico, mettiamo un amico, otteniamo lo stesso sapore dei nostri cibi e verosimilmente facciamo qualche cosa di buono. Ricordiamo che il sale non solo si aggiunge a pizziche, ma lo consumiamo anche nascosto negli alimenti. Professore Carlo ci scrive che il suo medico ci manda un messaggio via WhatsApp per dei livelli di pressione leggermente altina, ci scrive, gli aveva consigliato di ridurre il sale, anzi di non aggiungerlo alle pietanze, alle insalate, alle preparazioni, e la sua pressione miracolosamente, così ci scrive, è tornata nella norma. È possibile che il sale riesca a fare questa magia? È molto possibile, perché il problema del sale, ovviamente, forse ne abbiamo parlato in altre occasioni, non può essere disgiunto dal nostro profilo genetico. Noi non siamo soltanto quello che mangiamo, sappiamo sostanzialmente l'interazione tra quello che noi siamo geneticamente e quello che introduciamo dall'esterno. Il problema del sale è fortemente condizionato da questi due aspetti, per cui la quantità di sale che viene trattenuta a parità di sale introdotto dipende da alcuni aspetti genetici che sono soprattutto legati alla capacità del nostro rene di riassorbire il sale. Quindi se il nostro ascoltatore è tra coloro che si dicono sodiosensibili, quindi che assorbono una quantità esagerata di sale a parità di introduzione, è verosimile che sottraendo il sale dalla sua dieta o riducendola in maniera significativa, lui ne riassorba di meno e quindi ne abbia un vantaggio sulla pressione. È un tentativo che nel caso di ipertensione lieve deve essere sistematicamente fatto per identificare i pazienti sodiosensibili. Professor Borghi, prima di passare allo zucchero e ai tipi di zucchero, per capire anche se lo zucchero che noi aggiungiamo basta solamente questo oppure dobbiamo andarla a ricercare altri tipi e quindi è la qualità a fare la differenza, una domanda che non poteva mancare, che è di Anna e lega l'introduzione di sale, una dieta salata, con la cellulite. Ha una qualche relazione secondo lei, professor Borghi? Ora, la mia competenza nell'ambito della medicina estetica è... Però la cellulite è una sorta di infiammazione. Non è straordinaria, ma certamente la cellulite è una cosa che si colloca un pochino a metà, che ha aspetti di tipo estetico e aspetti di tipo invece potenzialmente patologico, quindi qualche cosa che ha intrinsecamente questo aspetto di infiammazione al quale lei faceva riferimento. Sicuramente sì, perché il problema del sale, ancora una volta, lei sta veramente facendo un percorso da manuale di fisiologia. Io stesso non avrei potuto fare meglio in una cosa di questo genere. Quindi il problema del sale è che una volta riassorbito, e quindi era il punto al quale ci eravamo fermati prima, si trascina acqua. Certo. Perché deve restare diluito nel sangue, perché lei non può immaginare che se un cristallo di sale come tale attraversasse il nostro tubo digerente e finisse nel sangue, creerebbe un disastro. Quindi quando lui si muove si trascina acqua e quanto più sale entra fondamentalmente nel nostro sangue circolante, tanto più si trascina acqua e tanto più crea condizioni di osmolarità che possono favorire l'accumulo di acqua nei tessuti. Quindi fondamentalmente la progressione o l'esplosione dei meccanismi di tipo cellulitico, per cui effettivamente potrebbe essere. E allora possiamo passare allo zucchero, professore. Tra l'altro in questi giorni l'Università Canadese di Laval ha diffuso i dati del consumo di bevande zuccherate in 80 paesi e devo dire che l'Italia è al 49° posto con 52,6 litri per persona e stiamo leggermente migliorando. Ma quando noi parliamo di zucchero, di che cosa parliamo esattamente? Di solamente dello zucchero che aggiungiamo al caffè, come ci scrive un ascoltatore? Perché il caffè senza zucchero proprio non riesce a berlo, come la o di altri tipi di zucchero, cioè ci aiuti a capire, perché è dietro questa sempre, parola si nascondono come tanti. Come sempre noi ci muoviamo in un'ottica mazziniana di pensiero e azione, per cui immaginiamo che le cose che avvengono siano soltanto quelle a cui corrisponde un gesto che per noi è abituale o visibile, dimentichiamo sempre tutto quello che è nascosto e nella grande maggioranza dei casi invece è ciò che facciamo inconsciamente che ci crea maggiori problemi. Nel caso del sale, il fabbisogno, diciamo la quantità di sale che si introduce giornalmente corrisponde solo per il 10% a quella che noi aggiungiamo dalla saliera, nel caso dello zucchero avviene esattamente la stessa cosa. L'aspetto più evidente è lo zucchero che mettiamo nel caffè, l'aspetto meno evidente è che noi ingestiamo una quantità di cibi che contengono zucchero e una quantità importante di cibi che apparentemente non lo contengono, ma che hanno quello che si chiama equivalente glicemico, per cui una volta che entrano nel nostro organismo vengono comunque trasformati in zucchero. Il pane, le patate, cose che fanno parte abituale della nostra vita e che non sono apparentemente zuccherate ma che vengono trasformate in zucchero. Quindi anche in questo caso è l'aspetto generale che dobbiamo prendere in considerazione. Se ci limitiamo soltanto a togliere la bustina di zucchero dal caffè, certamente qualche cosa facciamo, ma certamente non modifichiamo più di tanto il bilancio generale dello zucchero nel nostro organismo. Allora, arriva da Andrea da Ferrara un WhatsApp con: ma grande professor Borghi, ne sa parecchio, molto in gamba e stranamente comprensibile, che non è cosa da poco per un dottore. Ecco, allora, questo devo adeguarmi alle conduttrici di questa meravigliosa trasmissione. Senta, ma qualcosa sulla frutta ce la può dire, perché professor vogliamo Borghi. Parlare del fruttosio anche. Certo, sì, in questo caso l'aspetto è molto importante, è importante anche perché la qualità dei vostri ascoltatori e il numero soprattutto merita di conoscere esattamente questo problema. Il fruttosio è forse il tipo di zucchero oggi maggiormente sotto la nostra lente di ingrandimento per una serie di motivi che, se volete, poi possiamo approfondire. Però incominciamo a creare un grandissimo spartiacque. Ciò che crea problemi è il fruttosio addizionato, soprattutto quello che sta nelle bevande dolcificate e gassate, quelle a quale Nicoletta faceva riferimento in precedenza. Il fruttosio della frutta è presente in quantità adeguate rispetto al volume, rispetto al peso della frutta, e quindi noi non dobbiamo rinunciare al fruttosio della frutta, a meno che non ci siano gravi condizioni di alterazione del metabolismo glicemico, che non sono però tipiche di tutta la popolazione. Dovremmo invece utilizzare con una certa parsimonia i cibi che vengono dolcificati con il fruttosio, quindi in cui il fruttosio non è presente naturalmente, non fa parte, ma viene aggiunto. Perché che cosa fa esattamente questo fruttosio aggiunto, professor Borghi? Il fruttosio Borghi fa tutto ciò che fa il glucosio, sì, e quindi fondamentalmente aumenta la glicemia. In più ha la pessima proprietà che nel suo meccanismo di trasformazione dalla sua struttura chimica originale di fruttosio a quella di simile al glucosio dove viene metabolizzato, genera una quantità di sostanze che si chiamano purine, che sono costituenti anche delle nostre proteine, le quali a loro volta entrano in una catena biochimica separata e producono acido urico, un nuovo grande nemico non solo delle nostre articolazioni per quello che riguarda la gotta, ma soprattutto delle nostre arterie. E questo processo di produzione dell'acido urico a partire dal fruttosio genera quello che si chiama stress ossidativo, che è uno dei mantra della medicina moderna, e questo stress ossidativo a sua volta è responsabile di una serie di effetti negativi che vanno dallo sviluppo di ipertensione arteriosa, ma anche all'aumento della probabilità di sviluppare diabete, ma anche e soprattutto alla probabilità di sviluppare sindrome metabolica, uno dei nemici più grandi che noi affrontiamo, che la nostra epoca affronta fin dall'età infantile. Possiamo dire che il denominatore comune, il fattore di rischio comune a quelle che un tempo venivano etichettate come malattie del benessere? Sicuramente, ma queste sono malattie del benessere. Anche il problema legato all'acido urico, io ho avuto l'onore recentemente di fare una chiacchierata su questo aspetto, è frutto, diciamo, di una sorta di evoluzionismo umano che ha perso le sue caratteristiche. Noi una volta eravamo in grado di metabolizzare tutti i precursori fino all'acido urico e di metabolizzare anche l'acido urico fino a un prodotto inerte. Questo avveniva fondamentalmente nelle fasi iniziali della nostra evoluzione, quando ancora eravamo delle scimmie. Spostandoci dalle scimmie all'uomo abbiamo perso questa capacità, e il motivo per cui l'abbiamo persa è che perché per un certo periodo della nostra evoluzione l'acido urico era in grado di permetterci di sopravvivere in un ambiente difficile, perché faceva recuperare zucchero, aumentava un pochino la pressione, faceva una serie di cose che nel mondo degli uomini primitivi erano utili. Ora noi non viviamo più in quel mondo, ma abbiamo quelle stesse caratteristiche, certo, per cui riforniamo un meccanismo di difesa con una quantità enorme di sostanze e automaticamente abbiamo trasformato qualcosa che ha favorito l'evoluzionismo nell'uomo in qualcosa ovviamente che può creare l'effetto opposto. Allora Luigi da Reggio Emilia ci scrive che lui mette il miele nel caffè al posto dello zucchero. Quali sostituzioni sono permesse, professor Borghi, per chi non volesse rinunciare al dolce? Tra l'altro abbiamo fatto una puntata da Trento sulla percezione del gusto, molto interessante, con un professore di Trento che ci ha raccontato cose strane che capitano nel nostro cervello, che si attiva, ecco, guardando, sentendo. Percorso proprio multisensoriale. Andate a riascoltarvi la puntata. Non c'è dubbio. No, per la verità il miele può essere una buona soluzione. Anche in questo caso c'è una certa quantità di fruttosio anche nel miele, perché dipende sostanzialmente dalla sua provenienza, però può essere una buona alternativa perché riesce a dolcificare in maniera più evidente con un volume più piccolo. Quindi ciò che noi dobbiamo fare sostanzialmente è scegliere tra gli zuccheri lo zucchero comune, il saccarosio, che contiene prevalentemente glucosio e una piccola quantità di fruttosio, non sempre, e soprattutto usarne poco, usare la quantità che è strettamente necessaria. E tra ad esempio i cibi che possono sommessamente produrre un aumento della glicemia, cercare di usarne una quantità modesta. Ad esempio, in luogo del pane bianco possiamo usare il pane di Kamut, che ha un equivalente glicemico molto più modesto. Possiamo invece di utilizzare costantemente patate o qualcosa che sia derivato da farinacei, utilizzare altre verdure che sono altrettanto efficaci, più ricche di fibre e che probabilmente non hanno lo stesso problema. Si tratta soltanto di variare e vivere in maniera un pochino più saggia, mentre noi per comodità tendiamo a mangiarci un grande panino e poi a bere dietro una grande Coca-Cola, e all'interno di questi cibi ci sono in maniera nascosta tutti i nemici dei quali abbiamo parlato: il sale, lo zucchero, il fruttosio e quant'altro. E allora, per cambiare con gusto, perché un po' di cambiamento mette un po' di pepe, no? Nella nostra vita, non possiamo mica fare sempre le stesse cose. E non cose. Per aprire il capitolo sul pepe, ma lo facciamo sul pepe, un'altra peperoncino, volta. Peperoncino, curcuma e quant'altro, e spezie, faremo una puntata ad hoc, ma intanto salutiamo la prossima ospite, Silvia Strozzi, naturopata ed esperta di cucina naturale. Buongiorno Silvia. Silvia? Oh. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno Silvia, eccola buongiorno. Qua, a cui abbiamo chiesto di suggerirci due sostituzioni, due ricettine per sostituire il sale e sostituire lo zucchero. Silvia, andiamo di sale. Cosa allora, possiamo preparare di gustoso e saporito senza allora, usare troppo il sodio? Io vi suggerisco questo gomasio che preparo ai tre sapori. Sì. È molto semplice, ci vogliono 10 minuti. Vai. La prima cosa è di mettere una pentola con il fondo pesante sul fuoco per farla riscaldare. Dopodiché aggiungiamo 2 cucchiai di sesamo, lo facciamo scaldare e quando vediamo che il sesamo prende leggermente colore e comincia a diventare un pochino morbido, lo mettiamo dentro un robottino. Sempre nella stessa pentola aggiungiamo 2 cucchiai di semi di girasole e li facciamo tostare leggermente, muovendoli bene in modo che si tostino da entrambi i lati. Insomma, devono assumere un colorino uniforme appena dorato. Uniforme, però non tanto tostato perché no. Comunque la appena tostatura... Appena. Da amaro e quindi è meglio appena appena, e poi lo mettiamo anche questo nel nostro robottino. Dopodiché prendiamo i semi di zucca, altri 2 cucchiai, e facciamo la stessa operazione, quindi poi frulliamo i semi di sesamo, di girasole, di zucca insieme e otteniamo questa, diciamo, polvere che possiamo usare su tutte le insalate estive, sulle nostre verdure crude, per il pinzimonio. Deve diventare proprio il sostituto del sale. All'interno non c'è sale, ma è gustosissimo e vi stupirà per il suo sapore. Quindi gomasio e 3 sapori, sesamo, girasole, zucca leggermente tostati e poi mixati. Sì, l'unico consiglio è quello di tostare i semi separatamente, perché naturalmente il sesamo ha una cottura diversa dalla girasole e dalla zucca. Certo. Ecco. Andiamo allo zucchero. Allora, ho sentito qua la cosa diventa, si complica, ma la intanto professor complica. Borghi, prenda nota anche lei, poi trova tutto. Io prendo sempre nota. Ho detto delle cose fantastiche, veramente molto molto interessanti. Volevo preparare una ricettina per la colazione della mattina. Ad esempio io faccio la pasta come la pasta del pane, con la farina integrale, un pochino di lievito e l'acqua, senza sale e senza olio. Sì. Dopodiché prendo questa pasta, la stendo, ricavo dei quadrati dove metto dentro un'albicocca fresca snocciolata. Nell'albicocca fresca ci metto dentro un po' di mandorle tritate oppure nocciole tritate o quello che ho, frutta secca, un po' di uvetta, quello che mi piace di più. Chiudo l'albicocca e la infilo dentro questo quadratino di pasta di pane, la chiudo e creo un fagottino. Certo. Lo metto nel stampino dei muffin e lo cuocio nel forno. La mattina avrò questo panino integrale con dentro la frutta fresca che si sarà cotta, quindi si sarà ammorbidita e avrà anche condito il pane, con un po' di frutta secca, e quindi ho una colazione corroborante ma allo stesso tempo senza zuccheri. Magnifico. Aggiunti. Questo, io le albicocche le ho comprate. Sono quelle delle albicocche, sì. Io le albicocche le ho, mandorle ce le ho, pasta esatto. di pane la devo fare, farina tanto la farina integrale domani te sì. le porto. Bene. Poi se uno vuole può usare anche le prugne, quando ci saranno le prugne zuppelle, quelle viola che dentro hanno appunto il nocciolino, sono simili alle albicocche come idea, ecco, e si fa la stessa operazione. Fare dei panini farciti con la frutta esatto. di stagione frutta e al posto fresca. Del nocciolino mettiamo della mandorle o una esatto. nocciola. Con la frutta fresca, così noi abbiamo... utilizzato la frutta fresca per farcire il nostro pane e avere una colazione sicuramente molto, molto golosa. Ma quante se ne imparano a cuore denari? Professor Borghi, aspetti che le manderò 6 panini che faremo con Deborah. Facciamo anche i panini farciti e poi... La prossima volta vi verrò a trovare, voglio vedere cosa mi fate trovare per prezzo. Guardi, le faremo la foto intanto. Arrivi. Buona giornata al professor Borghi. Anche a voi, una grazie. Ottima giornata anche a Silvia Strozzi. Grazie per queste belle ricette. Allora, noi la bocca dolce ce l'abbiamo, vediamo sì, di non indovinarcela con i mercati. Guarda, purtroppo non ho buone notizie, tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Cuore e denari. E non ci lasceremo mai. E purtroppo non è così. Allora, nei giorni scorsi ci hanno colpito due notizie. Un allarme, non nuovo per la verità, dell'Associazione dei Consumatori Codici, che ha rilanciato l'ultima indagine del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica. Un terzo dei padri separati, pagato l'assegno di mantenimento ad ex moglie e figli, può contare su un reddito residuo che va dai 300 ai 700 euro netti mensili. Pensate che cosa si possa fare con questa cifra. Il 17% del campione monitorato deve accontentarsi di una cifra che oscilla dai 100 ai 300 euro. C'è anche un 15% che resta con in tasca con meno di 100 euro al mese, una situazione grave che peraltro ricade spesso e volentieri anche sui comuni, visto che sono i servizi sociali gestiti da questi a dover appunto gestire queste situazioni. Poi la seconda notizia da cui prendiamo spunto: in caso di separazioni la casa familiare può essere condivisa. Questa soluzione è rimessa alla discrezione del giudice e può essere scelta nell'interesse dei figli se questa soluzione può agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori. Il principio è stato ribadito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con questa ordinanza, la numero 11783 del 2016, depositata proprio mercoledì scorso, in cui è stato precisato che questa decisione può essere solo in presenza di un lieve grado di conflittualità coniugale, perché altrimenti immaginate cosa possa significare vivere insieme. Allora, tutto questo fermento in materia di separazioni ci ha fatto ricordare che oggi è più facile in teoria divorziare, il divorzio può essere più breve del passato e che la procedura può essere formalizzata di fronte all'ufficiale dello Stato civile, quindi in comune. Per cui abbiamo pensato, non perché naturalmente auspichiamo questa corsa al comune per velocizzare le pratiche di divorzio, noi speriamo naturalmente che tutte le famiglie all'ascolto siano solide e solidissime, però insomma c'è questa nuova opportunità che è stata in realtà praticata da molti coniugi che si sono voluti separare appunto in via del tutto consensuale, per cui abbiamo pensato di interpellare di nuovo un amico ormai di Cuore e Denari, lo possiamo definire così, Renzo Calvigioni, dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile dell'Anagrafe, l'ANUSCA o ANUSCA, non so dove mettiate l'accento. Calvigioni, buongiorno intanto. Buongiorno a voi, ANUSCA, mettiamo l'accento su ANUSCA. Sulla U. Come Verusca. Esatto. E perché l'abbiamo chiamato? Perché già settimana scorsa ci ha aiutato a capire meglio come sta iniziando a funzionare il meccanismo delle nuove unioni civili, per cui abbiamo capito che in questi uffici c'è grande fermento, grande attività in questo periodo e l'attività appunto sulle nuove unioni civili si è dunque andata ad aggiungere alle nuove attività legate alle pratiche di separazione che vengono siglate appunto proprio davanti o ai sindaci o a questi ufficiali. 800 24 00 24, invitiamo anche gli ascoltatori che vogliono stamattina rivolgerci delle domande sul dirsi addio in comune. Ci avete provato? Quanto ci avete messo? Come funziona questa nuova semplificazione? Va detto che per dirsi addio comunque gli italiani continuano a preferire il tribunale, perché le coppie che scelgono di separarsi o divorziare senza giudice sono ancora poche. In compenso stanno aumentando le domande di divorzio perché sono stati ridotti i tempi di attesa appunto dopo la separazione. Il divorzio breve, Calvigioni, ha debuttato un anno fa, mentre le strade per lasciarsi alternative ai tribunali risalgono a 2 anni fa. Ci ha portato qualche dato questa mattina rispetto a questo nuovo fenomeno, almeno i dati che potete voi come figure professionali monitorare? Sì, noi abbiamo i nuovi dati che si riferiscono all'anno 2015 e direi che sono dati ancora non ufficiali, ma in corso di pubblicazione da parte dell'Istat, quindi tra un po' saranno resi pubblici e saranno disponibili a tutti, e parlano di ben 42.000 separazioni e divorzi di fronte all'ufficiale dello Stato civile nell'anno 2015, che è un numero davvero impressionante, anche perché significa che ci sono 42.000 pratiche che vengono tolte ai tribunali, perché di questo si tratta in realtà, e vengono affidate agli ufficiali di stato civile. D'altronde l'obiettivo era proprio quello, insomma, alleggerire il carico della giustizia ordinaria sostanzialmente, sì. Nei primi quattro mesi del 2016 siamo a 12.000 separazioni e divorzi in comune senza le grandi città, quindi una volta che saranno conteggiati i dati delle grandi città chiuderemo l'anno sicuramente con una cifra superiore a quella del 2015, questo anche considerando proprio che è entrata in vigore la nuova legge, la 55 del 2015, che accorcia drasticamente i termini della separazione. Infatti. Quindi sicuramente è un aspetto numericamente molto, esatto, molto importante. Allora, buona notizia che si sono alleggeriti i tribunali, la cattiva notizia che vi siete caricati voi sostanzialmente, Calvigioni. È proprio notizia oppure avete colto questa novità come una ottima opportunità professionale? Noi apprendiamo sempre le cose che vengono come delle grandi opportunità di miglioramento e di professionalità. Soprattutto teniamo conto che il nostro ufficio è un ufficio che nasce per svolgere servizi al cittadino e quindi tutti i servizi che vengono proposti e che vanno a favore del cittadino da parte nostra sono e debbono essere sempre ben accetti. In effetti per il cittadino questa è stata davvero una procedura particolarmente agevole, c'è una grande semplificazione, una grande rapidità, un costo ridotto praticamente irrisorio, vedremo se vuole che si parla di un massimo di 16 euro e addirittura con le nuove norme tra separazione e divorzio possono passare solamente 7 mesi, certo. Quindi da quando si inizia, dopo 7 mesi siamo già divorziati. Esatto. Altro che, anche se non è così in tutti i comuni, perché in realtà bisogna prendere un appuntamento e per qualche comune la lista d'attesa è molto lunga. Detto questo, i tempi si sono sicuramente abbreviati. Allora andiamo subito all'ABC del nuovo sistema, Calvigioni. Voglio separarmi siglando un accordo in comune. A quali condizioni è sufficiente rivolgersi al municipio? Guardi, la condizione principale è che deve esserci il consenso dei coniugi e quindi le parti devono essere, si tratta comunque di un accordo consensuale in cui è fondamentale che le parti vengano già d'accordo e viene evitata qualsiasi ipotesi di contenzioso. Se non sono d'accordo nel momento in cui vengono di fronte a noi e scoppia una piccola lite, dovranno poi andare in tribunale. Già basta poco, basta che si innervosiscano davanti a voi per rimandarli indietro, no Calvigioni? No, perché comunque c'è un periodo di ripensamento che assegnate, non è che si viene lì, si firma e la pratica è chiusa. 30 giorni di tempo mi pare che siano stabiliti, sì, è vero, appunto, no? Per legge, per pensarci bene. Sì. C'è una sorta di ripensamento che esiste solo nella procedura di fronte all'ufficiale dello Stato civile, ma diciamo che prima c'è il vero e proprio accordo che viene redatto da parte dei coniugi di fronte all'ufficiale dello Stato civile. In questa fase l'ufficiale di Stato civile assegna un termine superiore ad almeno 30 giorni, fissa una data nella quale le parti debbono ricomparire personalmente per confermare la loro volontà. È una sorta di diritto di ripensamento. E se basta che una sola delle parti non possa presentarsi per qualsiasi motivo, il primo atto è come se non, certo, fosse mai stato fatto, quindi viene annullato tutto e se vogliono dovranno eventualmente ricominciare da capo, certo, ricominciare tutto. Senta da capo. Calvigioni, io adesso ho il traffico, ma mi chiedo velocemente, c'è chi ci ripensa? Le sono capitate delle situazioni di questo tipo? Di qualche ripensamento? Capita qualcuno che per un motivo o per un altro, magari dopo la prima fase, possa ripensarci, non si ripresenta, quello che capita è qualcuno non si presenta a quel punto. Ma perché noi si preferisce poi ad andare in tribunale perché magari, come dire, la separazione... Ma no, magari ci può essere stato, è capitato che c'è stata magari una fase di riavvicinamento che poi si ripresenta, però alla crisi successiva ritornano di nuovo da noi. No, se sono venuti qui da noi significa che, uno, significa che non ci sono figli minori, sì, né maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti e che non c'è nemmeno il desiderio di dividere o beni patrimoniali o con, diciamo, patti patrimoniali da fare. Quindi se questa situazione c'era è chiaro che si ripresenteranno di nuovo da noi se vogliono ancora separarsi o divorziare, perché i vantaggi sono infiniti, sono notevolissimi. Insomma. Ci fermiamo, il traffico, a tra poco. Cuore e denari. Mi chiedevo, ma noi chissà perché viviamo? Ma tu mai ci hai pensato qual è lo scopo vero della nostra vita? Qual è? È amare. È amare. Noi viviamo per amare. Se non si amerebbe... Amasse. se non sia male. Sì, noi è passi come tanti fiori in autunno appassiti. Noi appassiressimo, Fefe. Allora, da divorzio all'italiana al nuovo divorzio all'italiana, quello che è possibile siglare anche davanti ad un ufficiale del comune. Praticamente questa mattina con noi è tornata a trovarci Renzo Calvigioni dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dell'Anagrafe per spiegarci appunto cosa si può fare in comune qualora appunto si sia una condizione di volersi separare, di voler divorziare. Tra l'altro, proprio per non fare confusione fra i termini, Calvigioni, nell'ordinamento tradizionale prima del divorzio vero e proprio esiste un periodo di separazione, quindi davanti al comune esattamente qual è l'atto che si sigla? Così lo chiariamo anche ai nostri ascoltatori. Si possono fare, allora, prima di tutto si deve fare la separazione, quindi si fa l'accordo di separazione, viene formalizzato un accordo di separazione e anche per questo occorre un periodo di ripensamento di 30 giorni. Con i nuovi termini, una volta che c'è stato questo accordo di separazione, le parti, dopo 6 mesi, sempre dando per certo che siano d'accordo e che quindi che si tratta di ipotesi consensuali, i coniugi dopo 6 mesi si possono ripresentare di nuovo di fronte all'ufficiale dello Stato Civile per divorziare, cioè per sciogliere definitivamente il loro matrimonio. Prendono un nuovo accordo, quindi viene predisposto e redatto un nuovo atto di accordo, anche in questo caso ancora 30 giorni per la conferma, e una volta decorsi 30 giorni è redatto ancora da entrambi i coniugi l'atto di accordo, il matrimonio è sciolto, quindi le parti sono divorziate e possono contrarre nuove nozze. Enrico da Bergamo dice che è fantastico il divorzio comune, 2 volte davanti al sindaco, 2 firme, 16 euro, appena fatto, passa la paura e così via. Insomma, ecco come si può sciogliere anche un vincolo matrimoniale, presumibilmente preso nella piena consapevolezza, però insomma l'importante, ecco, forse meglio così che tutta la conflittualità che vediamo in tanti casi. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Volevo sentire velocissimamente Ciro d'Alessandria. Ciro, rapido, grazie. Buongiorno, grazie a voi per questa possibilità. In realtà mi avete appena risposto. Ottimo. Perché la mia domanda era proprio se è possibile fare separazione e divorzio in comune. Però ecco, io rapidamente dico, io mi sono separato 3 anni fa in tribunale consensuale, figlie maggiorenni, autonome e quant'altro. Per il divorzio adesso, qualora una delle due parti, caso specifico mia moglie invece, non avesse voglia di venire in comune, come devo andare? Allora Ciro, sì, 2 o 3 aspetti della sua domanda. Intanto Calvigioni, ci sono dei figli, anche se ho capito sono maggiorenni? Guardi, se sono maggiorenni, autosufficienti, economicamente autosufficienti, la procedura può sicuramente essere fatta in comune. Il limite sussiste solo se i figli sono minori o portatori di handicap grave o non autosufficienti. In sostanza la legge si preoccupa di tutelare un soggetto debole. Certo. La separazione di questa coppia è avvenuta prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Possono comunque lo stesso utilizzare i nuovi servizi del comune, chiamiamoli così, per poter formalizzare il divorzio? Certamente possono, l'importante è che ci sia, che la separazione sia stata definita, in questo caso addirittura è stata definita 3 anni fa, quindi ampiamente hanno superato tutti i termini, oggi bastano 6 mesi, quindi può rivolgersi al comune. Però mi pare di aver capito che un terzo requisito che manca, forse la ex coniuge non è tanto d'accordo nel velocizzare la pratica in questa maniera. Se non c'è la consensualità da entrambe le parti, infatti, purtroppo l'ufficiale di Stato Civile si ferma e l'unica soluzione torna ad essere quella del divorzio giudiziario. Senta, come mai costa così poco? 16 euro, questa è una spesa proprio puramente amministrativa che va a remunerare che cosa? Ma guardi, in realtà non va a remunerare nulla. Neanche, perché è solo, non diamo neanche, idee. Ma con un pezzo di carta. Niente, perché in realtà 16 euro è una somma assolutamente irrisoria e, se posso dirlo, è l'aspetto che a nostro parere è meno condivisibile, perché chi affronta questa procedura in ogni caso avrebbe affrontato una spesa molto più alta, sia tramite il discorso giudiziario, sia anche per le spese per gli avvocati. Sì, no, ma infatti, quindi, ma era in una curiosità, caso, non è che contestavo l'importo, Calvigioni. Si figuri proprio la donna di denari, no, infatti, ci vuole far spendere di più. Noi avremmo voluto sottolineare che c'era una struttura, gli uffici comunali, gli operatori, gli ufficiali di Stato civile che devono prepararsi, che forse avrebbero meritato e meritano sicuramente maggiore una piccola, magari, esatto, una considerazione, anche una piccola indennità per i nuovi carichi di lavoro, certo, Calvigioni. Certo. Noi su questo siamo assolutamente d'accordo. Formazione. E anche per la formazione, che è un passaggio fondamentale. In questo senso, Anusca da 35 anni cura la formazione degli operatori, dei servizi demografici, e senza, vi posso assicurare, che ci sarebbero state tutta una serie di difficoltà ben superiori. Certo. Senta, velocemente, allora, due coniugi in totale accordo vogliono separarsi ed eventualmente fra qualche mese divorziare secondo le nuove procedure, bisogna però prendere un appuntamento davanti all'ufficiale del comune, giusto? Quanto tempo può servire? Perché non è che sì, una mattina ci si alza, si va in comune e si firma, bisogna comunque prendere un appuntamento. Per qualche comune c'è un carico di lavoro abbastanza rilevante. Sì. Si tratta di una procedura che ha ottenuto un grandissimo successo. Sì. E tutto questo ovviamente ha provocato delle file di attesa, delle file di attesa che possono essere più o meno lunghe a seconda di quanta disponibilità vi sia nel carico di lavoro che deve essere gestito, certo, dagli operatori. Quindi vi sono dei comuni in cui magari si riesce ad ottenere un appuntamento nel giro di qualche giorno ed altri in cui le liste di attesa sono un po' più lunghe. Però in questa fase consiglio sempre di far presente la propria situazione all'ufficiale dello Stato civile, il quale in questo modo può aprire una pratica, vedere se ci sono le condizioni, certo, per poter procedere, e se è del caso magari far presente che servono a documenti o che serve magari, certamente, una piccola accertamento da parte del stesso ufficio. Grazie moltissime a Renzo Calvigioni per essere stato con noi. Anche oggi Cuore Denari è terminata, ma torniamo domani, immagino, così, ha senso. Alle 10:30 vi aspettiamo.